Six al mic. Adesso parlo un po' del Ferraris. Studente in incognito mi sgama la Queen. Censuro per evitare una sospensione. Il co evita la pensione, il VOC monta il sapone. 1, 2, 3, check, tutto a posto man. Attacca il check, improvvisa sul notepad. È già tanto se sono arrivato qua che non mi abbia sparato. Lo Yosemite frattacco. Sbroglio un ammasso di fili prima del rec. A scuola uso gli scarti, quindi fai un po' a te. Scuola più degradabile, già tanto se esci. Vetri pericolosi e non a norma gli strumenti. Ma sappi che non è la preside che voglio. E sappi che va a New York, con quale fondo? Pipi la pampa, lo prendi da pampa. Ti chiami mica qui, ti pipi pure la farina. Nel divorzio, marzo al consorzio. Il deep hop copre stelle al telescopio. 666 una zoccola, 666 già qua. 666 666 Satan. Benvenuto nella scuola degli orrori, in cui lavorano degli zombie difettosi. Il cielo si oscura e Sitz fa paura. Lo studente medio si autocensura. Benvenuto nella scuola degli orrori, in cui lavorano degli zombie difettosi. Il cielo si oscura e Sitz fa paura. Lo studente medio si autocensura. 007 sguazzo nel calderone. Caldera babbone di minchia. Senti la chimica per te non fa mica. Come l'inglese non fa per caro. 1, 2, 3, tutto a posto, prova. Demo dema, il tuo décolleté sempre in voga. Ti schiaffano il cazzo in gola. Ti vanti stupida, lo so, ormai tutta la scuola. Bella fama, quella della puttana, ma paghi le tasse perché lavori a gratis. Senti da te l'ipica, non è oro ciò che luccica. Equivale non è sperma tutto ciò che appiccica. Corri intorno al campo, ti credi Don Corleone. Piacere no, chiamami Don Pinzarro. Simone bullizzato da un pazzo sadico. Muori tombato dal vocalista schiacciato. Ti spedisco in tomba, chiudi quella fogna. Che io chiudo la bocca, ciclope con la borsa. Ma adesso cerchi rogna, Cristo il De Santo. Ti fottessero l'auto e poi sti cazzi.